Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Il gruppo più numeroso è quello popolare, è giusto che il loro candidato venga designato. Se sarà così, avrà una grande maggioranza all'Europarlamento, lo dice Gianni Pittella, europarlamentare PD, già presidente del Parlamento europeo, nel corso di un'intervista questa mattina sul Messaggero. Dice Juncker, ha le qualità e le caratteristiche pro-europee indiscusse, è un grande europeista, non ha avuto il timore di marcare distanze anche nei confronti della signora Merkel. Questo è il punto di vista di Pittella, dunque vicepresidente del Parlamento europeo, nei giorni che di fatto anticipano la decisione finale sul prossimo presidente della Commissione. Intanto si torna a parlare di raccomandazioni economiche oggi e domani a Lussemburgo, nell'Eurogruppo e nell'Ecofin, un passaggio necessario e formale in vista della nuova Commissione europea. Un passaggio del testimone, in cui i ministri dell'economia europei sono chiamati ad approvare le consegne e le raccomandazioni ai singoli stati membri che la Commissione europea ha fatto a inizio giugno e che poi approderanno al vertice europeo del 26-27 giugno per l'approvazione finale. Una riunione quindi formale, preceduta da una discussione dei ministri sulle riforme e gli obiettivi di bilancio che la Commissione ha indicato nei documenti pubblicati all'inizio del mese e che ogni Stato dovrà incorporare nei propri piani di riforma da attuare durante l'anno. Ordine del giorno dell'Eurogruppo. Poi infatti il programma di lavoro da luglio a dicembre. Sul fronte italiano ci si attende che venga confermato l'approccio morbido con il quale Bruxelles attenderà le nostre correzioni di bilancio e le riforme promesse per i prossimi mesi. Nel corso del Consiglio Ecofin si parlerà anche dell'adozione della moneta unica da parte della Lituania a partire dal 1 gennaio 2015 come proposto dalla Commissione. Il via libera definitivo però dovrà arrivare dal Consiglio Europeo. In agenda verrà infine discussa la proposta di budget europeo per il 2015 fatta dalla Commissione ed è previsto un punto sulla situazione greca. La chiusura delle procedure per deficit eccessivo di Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Slovacchia. E sarà anche l'ultima riunione di Olli Rehn. Il commissario agli affari economici, eletto eurodeputato, lascia il posto all'ex premier Jyrki Katainen, un altro finlandese. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Spiegheremo le nostre ragioni. Noi stiamo riducendo drasticamente i tempi e con l'avvio della fatturazione elettronica i tempi si abbasseranno ulteriormente. Così il sottosegretario all'economia Pierpaolo Beretta a Radio Anch'io, dopo aver risposto all'invio della lettera di messa in mora da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia. Non si può dimenticare lo sforzo che l'Italia sta facendo per pagare i debiti eccessivi nella pubblica amministrazione, anzi che la pubblica amministrazione deve restituire alle imprese. Su questo tema è stata polemica tra italiani, di fatto in veste di Parlamento europeo e governo, che hanno coinvolto il commissario uscente Tajani, che risponde così ieri ai nostri microfoni. Il mio intervento è a tutela delle imprese e dei lavoratori, perché l'avvio della procedura di infrazione, che segue già una serie di lettere, di messaggi che si chiamano UPAR, cioè di avvisi che non sono stati ottemperati dall'Italia, Bene, e questo permetterà all'Italia di cambiare la situazione e quindi anche di risparmiare denaro. Perché? Perché la direttiva comunitaria recepita con legge della Repubblica Italiana dice che ogni pubblica amministrazione che non paga entro 30 giorni, dal 31esimo giorno deve pagare una mora dell'8 certo. Oggi 15%. Quindi questa lettera di messa in mora aiuta l'Italia. Tajani, che era ospite a Focus Economia. Infine gruppi che si formano, il leader dello UKIP Nigel Farage, il partito euroscettico britannico, ha annunciato a Bruxelles di aver raggiunto il numero minimo di eurodeputati da almeno 7 paesi dell'UE, quello appunto necessario per poter riformare il gruppo politico Europa delle libertà e della democrazia al Parlamento europeo. Del gruppo faranno dunque parte anche i 17 eletti del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento. È tutto da Gigi Donelli, da Filippo Reggi in regia. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.